Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, la cronaca economico-finanziaria in questi tempi di coronavirus. Parleremo chiaramente della fase 2. Allora, cos'è successo oggi? È slittato il pre-consiglio dei ministri alle 18, ma in contemporanea più o meno vi è anche l'incontro con le regioni per capire le indicazioni che chiedono le regioni. Sapete tutte qual è l'oggetto, molte regioni vogliono partire, soprattutto quelle che hanno basso numero di contagi, per non dire zero contagi, zero decessi, vogliono partire già dal 18 anticipando alcune aperture previste per il 1 giugno. Mi riferisco soprattutto a ristoranti, bar, parrucchieri e centri estetici, che sono quelli che mancheranno all'appello o mancherebbero all'appello anche dopo le aperture già previste, diciamo dal 18 di maggio. È in programma alle 18 questa riunione, e appunto già il ministro Boccia ha fatto capire di nuovo anche oggi che, guardando i dati del contagio, vi saranno probabilmente delle differenziazioni dal 18 maggio, e quindi spero che con la differenziazione territoriale possano riaprire ovunque. Poi sarà responsabilità delle singole regioni avere il quadro dei dati per capire diciamo, come, e se non vi dovesse essere, speriamo di no, la necessità di richiudere alcune aree. E questo è un fronte, dicevo. Poi c'è il pre-consiglio dei ministri. Perché? Perché lì stiamo attendendo ancora notizie per quello che riguarda il decreto Rilancia Italia, decreto rilancio. Sappiamo che più o meno dovrebbe montare a 55 miliardi, scusatemi. Dovrebbero esserci 600 milioni per la sicurezza anti-Covid nelle aziende. Ne parleremo di questo, dell'incontro con le regioni e di un tema su cui io non voglio mollare, non lo sta facendo nessuno in questa radio: le mascherine. Allora, mascherine e anche i tamponi, ma in questo momento stiamo parlando di mascherine. C'è una polemica continua. Le associazioni, e mi riferisco a Federpharma, ha detto: attenzione, le mascherine da domani saranno bloccate, sono finite, ce ne sono troppe bloccate. Qual è il, secondo i distributori, qual è il tema? Cito la fonte, non è che condivide, il presidente di Federpharma Servizi dice: attenzione, noi vendendole a 50 centesimi più IVA, comprandole con un prezzo calmierato che poi deve essere la vendita di 50 centesimi più IVA, ci mettiamo fuori mercato, perché in Spagna e in Francia le mascherine sono 96 centesimi più l'IVA. E quindi che succede? Secondo l'accusa, per esempio la Cina e altri produttori preferiscono venderle a chi offre un prezzo più alto. Il tema qui è appunto relativo proprio al prezzo offerto da questo punto di vista. E io non sono sicuramente un esperto di mascherine, però diciamo, conoscendo un po' come funziona il mercato, è ovvio che tu non puoi buttare fuori, se ho ben capito la critica dei distributori, buttare fuori dal mercato con un'offerta troppo bassa e quindi lasciare l'Italia per ultima, perché è ovvio che un produttore va a vendere laddove ha più margine. Poi c'è la polemica dei farmacisti che dicono: noi le abbiamo comprate a un prezzo ben più alto, quindi almeno compensate la differenza, perché è anche difficile, se il farmacista riesce, dimostra che le ha comprate a un prezzo ben superiore ai 50 centesimi, si parla di 1-2-3 euro, beh, tu puoi chiedere di non guadagnarci, ma non gli puoi chiedere di perderci. Questo voglio dire, almeno la compensazione sul costo sostenuto. Allora, questo si innesta, ma non ne tratteremo oggi, col tema dei tamponi, perché io ancora vorrei una risposta chiara dalle autorità, dal commissario Arcuri, dai ministri. Il tema dei tamponi è un tema di reagente, se abbiamo ben capito, c'è il cotton, per capirci male, c'è il bastoncino ma manca il reagente. Bene, ci potete dire i tempi per questo reagente? Non è una cosa che non abbia a che fare con l'economia. Siccome qua c'è in discussione anche una cosa che secondo me è abbastanza folle, e cioè il fatto che l'infezione eventuale da Covid-19 viene vista come un infortunio sul lavoro, secondo me è difficilissimo, in questo momento impossibile, capire se tu sei diventato positivo perché eri al lavoro o perché hai fatto altro o perché... E questo preoccupa moltissimo gli imprenditori, perché voi sapete che poi c'è una responsabilità del datore di lavoro. Allora, i tamponi diventano fondamentali per far entrare i lavoratori in sicurezza, ecco perché sono un tema economico. I lavoratori e le imprese che hanno già riaperto, poi ne apriranno altre dalla prossima settimana, oltre che per isolare, qui il tema non è economico ma è di carattere proprio di sanitario, isolare i focolai e fare il modello, diciamo, Voeuganeo, il modello veneto, che ha funzionato così bene stanti i risultati, e quindi bloccare, identificare tutti i possibili positivi asintomatici. Ripeto, da un punto di vista economico, avendo noi un distretto importante della farmaceutica in Lombardia, un distretto altrettanto importante del biomedicale nella zona di Reggio Emilia, Mirandola, vorrei capire perché questo reagente, basterebbe una risposta, questo reagente non si trova, non si riesce a produrre, non riusciamo con l'industria chimica che abbiamo in questo paese a produrlo, lo stanno chiedendo troppi paesi, basta avere una risposta, uno poi non dico se la mette via, ma almeno ha una risposta. Ne parleremo nei prossimi giorni. In apertura non molliamo invece sull'altro tema, il trasferimento dei soldi, il DL liquidità per le imprese. Continuiamo a ricevere segnalazioni di imprenditori che senza una spiegazione si sono visti rifiutare dalla banca, hanno detto non è i 25.000 euro, i famosi 25.000 euro, quelli col 100% di garanzia dallo Stato, e quelli che possono essere ottenuti fino a 25.000 euro, ossia fino al 25% dei ricavi. I ricavi a quel punto devono essere 100.000 euro. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Le borse come vanno? Devo dire oggi Milano meno 0,40, Parigi meno 1,60, Francoforte meno 1, Londra meno 0,40, Dow Jones meno 0,80%, Leonardo meno 3%, Exor meno 2,40, Moncler meno 2,20, Unipol pure, Pirelli meno 2,1, Terna meno 2 come Enel, l'1,80 lo perde Steam Microelectronics. L'1,60 il calo di Fiat e Tenaris. Chi va bene, Recordati più 6,70, Diassorin più 5, Mediobanca più 3,60, Fineco più 2,70 come Amplifon, il 2,5 lo guadagna Poste, il 2,20 era, l'1,20 BPM e Azimut, ma anche Atlantia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Mirandola sia in provincia di Reggio Emilia, ha detto che tra Mirandola e Reggio Emilia c'è tutto un distretto biomedicale. Non ho mai voluto attribuire a Mirandola l'annessione alla provincia di Modena, ci mancherebbe, sarebbero problemi. Però ripeto, al di là di questo, qualcuno mi fa notare, perché alcuni riescono, no, i tamponi non è che non si stiano facendo, noi tra l'altro abbiamo come numero di tamponi, stante le informazioni, il numero più alto dopo la Germania. Solo vorrei capire perché, diciamo, non si riesce a pianificare un ricorso ancora più massiccio, ma vorrei intanto essere tranquillizzato sulle mascherine. Andiamo con ordine, però se no oggi non andiamo più avanti. Per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, in Cina sono ripartite un po' le vendite di auto ad aprile, più 4,4%, il primo rialzo dopo 21 mesi di cali. La Banca Centrale Europea oggi ha segnalato come la scorsa settimana abbia acquistato 34 miliardi di obbligazioni, nella stragrande maggioranza titoli di Stato. dei vari paesi, e quindi il programma di acquisto di titoli di Stato per l'emergenza pandemica, il PEP, vola 153 miliardi di euro da quando è partito. Questo vuol dire che la Banca Centrale Europea, nonostante la Corte tedesca, chi se ne frega della Karlsruhe in questo momento, continua a comprare debito dei paesi dell'area euro, ed è secondo me in questo momento a livello europeo la misura che più funziona, cioè quella che almeno è partita subito, tenendo bassi i tassi di interesse, permettendo anche di non avere spread che schizzino verso l'alto. Vedo molta ancora polemica politica sul MES, onestamente non la capisco. Dunque, il MES ha pubblicato il formulario con cui chiedere gli aiuti della nuova linea di credito. Nel formulario vanno dettagliate le spese sanitarie fino al 2% del PIL, cioè l'Italia deve iniziare a fare i compiti scritti e dire: bene, ho bisogno di spendere fino a 36 miliardi circa del PIL per queste spese sanitarie. Possono essere dirette o indirette. Mi facevano notare alcuni osservatori che, per esempio, anche le spese per il trasporto pubblico, per il distanziamento, metropolitane, autobus e quant'altro, sono spese di carattere sanitario per il Covid. Cioè, non è che intanto, per carità, la spesa sanitaria delle regioni, le regioni hanno comunque dovuto e stanno gestendo anche una spesa molto forte di carattere sanitario, ma vi sono altre misure che, se tu iniziassi a lavorare anche nei dettagli e non solo per i grandi principi, potresti inserire nel MES. Ma vedo che ancora sul MES, principalmente Lega e Fratelli d'Italia e una parte dei 5 Stelle, hanno ancora un approccio completamente ideologico. Io ribadisco quello che ha detto oggi anche il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis. Ha detto: le discussioni sul MES sono molto complesse in Italia, ma bisogna dire una cosa molto importante. Il MES per il Covid-19 ha termini completamente diversi rispetto al passato. Non ci sono le classiche condizionalità macroeconomiche, quindi l'andamento dei conti, del PIL, del deficit, del debito. C'è solo una condizione: che i soldi vengano spesi per il Covid-19. Così come ha chiarito di nuovo ieri il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. C'è stato un po' di equivoco. Effettivamente il MES prevede delle condizionalità, è scritto nel trattato, ma diciamo l'accordo che abbiamo negoziato non prevede che non ci sono condizionalità, ma che si è deciso che le condizioni sono quelle che si usano questi soldi per la spesa sanitaria e di prevenzione diretta e indiretta. Quindi abbiamo deciso che il concetto di condizionalità non si applica più, come era in passato, all'ipotesi di manovre correttive presenti, future, a monitoraggio e correzione della politica di bilancio di un paese, ma la condizione c'è, ed è che i soldi si usino per questo scopo. Cioè che se io prendo questi soldi li devo usare per finanziare le spese sanitarie dirette e indirette di prevenzione del virus. E quindi anche il controllo c'è, ma il controllo è limitato al fatto che effettivamente i soldi si spendano per questo scopo. Allora, vi dico che cosa ha detto oggi l'Accademia dei Lincei, che non può essere accusata di essere così un pericoloso covo filoeuropeista per mettere il cappio all'Italia. Delle volte, quando un politico, come quando un giornalista, sbaglia l'analisi o non capisce le modifiche reali, può anche dire: vabbè, mi sono sbagliato. Non è che può succedere. Invece vedo che lì è più importante mantenere fede, diciamo, all'idea iniziale. Allora, l'Accademia dei Lincei fa uno studio e dice: quanto ci costerebbe prendere, la dico male ma per farmi capire, 36 miliardi sul mercato o 36 miliardi col MES, visto che noi ne abbiamo già versati nel meccanismo europeo di stabilità 14, quindi è come se tu avessi messo 14 miliardi in un fondo, avessi la possibilità di prendere 36 ma vuoi andare a prendere da un'altra parte. Così, aggiungo, permetteresti agli altri paesi di ricorrere al MES con i soldi anche tuoi. Mi sembra un'operazione di tafazzismo geniale. Ma sentiamo cosa dice l'Accademia dei Lincei. Dice: se dovessimo reperire quei 36 miliardi sul mercato, andiamo a vedere quanto rende un BTP a 10 anni in questo momento. Rende l'1,83% l'8 maggio. Quindi l'Italia potrebbe reperire 36 miliardi emettendo, diciamo, un BTP a 10 anni o diverse aste all'1,83%. Rispetto al costo del MES, perché il MES ha un costo molto basso, allora il vantaggio sono praticamente sono 600 milioni di euro annui che cumulati su, di interessi in meno per gli stessi soldi. Quindi è come se tu avessi la possibilità di avere in prestito dei soldi a un tasso o a un altro tasso che ti fa risparmiare 600 milioni di euro all'anno di costo degli interessi per un prestito equivalente. Ora, io non so se non ci sono le condizionalità, ma perché dobbiamo 600 milioni di euro di interessi in 10 anni, mettendo che il BTP resti a quel livello, non schizzi verso l'alto con un attacco speculativo, vuol dire che noi alla fine risparmiamo 6 miliardi di euro in 10 anni. 600 milioni ci fanno comunque comodo. E ripeto, lo dice l'Accademia dei Lincei. Adesso arriveremo dopo alle domande al fondo di garanzia e a quello che sta capitando, diciamo, ai prestiti alle imprese, perché dedichiamo proprio la prima parte del programma su questo. C'è una cosa che non capisco, la voglio dire, la scuola e la formazione serve, è un elemento chiaramente anche economico, però ci sono i presidi italiani delle terze medie, in particolar modo quelli della CISL, che sono molto preoccupati che l'esame di terze medie, così come previsto dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, sembra aver perso ogni elemento caratterizzante l'esame di Stato. Cioè, loro ricordano che comunque è un esame di Stato quello di terza media, e svolgerlo con una tesina, un colloquio a distanza, fa perdere ogni elemento caratterizzante. Questo solleva diversi dubbi anche alla luce dell'articolo 33 della Costituzione. L'esame proprio non c'è ammissione, non c'è commissione, non c'è alcuna prova, e questo mal si accorda con le previsioni costituzionali. Io posso chiedere alla ministra Azzolina intanto di farci capire perché in altri paesi stanno tentando delle aperture, in la Francia molto attenti, molto scaglionati, qui abbiamo buttato subito a settembre la cosa. Vabbè, la maturità, ma perché non si riesce a fare per gli studenti della terza media almeno un incontro, scaglionandoli, allungando le giornate, diciamo, di esame? Cioè, avete rinunciato a prescindere? È un problema degli insegnanti o è un problema degli studenti? È un problema degli insegnanti fuori ruolo, dei sindacati dei presidi? Voglio capire. Ministro, anche lei ci dica qualcosa, non si può continuare a dire stiamo lavorando su settembre. Ho capito, ma negli altri paesi si stanno ingegnando anche su maggio e giugno. Poi magari i risultati non saranno granché, figurati, ma almeno ci stanno provando. Ci può spiegare il ministro Azzolina perché non riesce a organizzare nelle scuole italiane almeno un, perché hanno ragione, c'è un rischio di esserci un vizio di incostituzionalità essendo un esame di Stato? Allora, per quello che riguarda invece i dati che arrivano dal mondo delle imprese, prima di arrivare ai prestiti, ma è propedeutico al tema dei prestiti, perché insomma. Allora, i notai fanno notare che c'è un crollo delle compravendite immobiliari, meno 70%. Vabbè, ho capito, era difficile fare compravendita immobiliare tra marzo e aprile. Però invece un sondaggio SVG Lega Coop segnala come metà degli italiani con case in affitto o mutui da pagare è preoccupata di non riuscire più a far fronte a canoni e rate. L'ufficio studi della Confcommercio l'ufficio studi della Confcommercio segnala che ci sono 270.000 imprese a rischio chiusura, e Federalimentare fa notare che la crisi è peggio di quella del 2008. Purtroppo c'eravamo arrivati, nel senso che quella del 2008 sarà una seconda crisi, sarà seconda come intensità. E poi metà delle famiglie ha ridotto le spese alimentari secondo Save the Children. Sentiamo anche sulla fase 2, poi lo riascolteremo, Boccia sulla fase 2 lo ascoltiamo direttamente quando parliamo della fase 2. Andiamo invece ai finanziamenti alle imprese, che non sono i finanziamenti delle banche. Lo Stato fino a 25.000 euro su 100.000 euro garantisce il 100%, parlo delle piccole e medie, fino a 800.000 euro garantisce il 90% con 10% dei confidi, e fino a 5 milioni in maniera analoga. Poi invece per le grandi imprese c'è tutto il tema SACE. Qualcuno mi dice, lei è una macchietta, fanno anche le tesi di laurea a remoto, ma io non ho detto che non si possa fare, ho detto solo, avrei preferito, avrei apprezzato che il ministro ci spiegasse perché hanno vagliato tutte le possibilità per fare gli esami di terza media e si sono resi conto che mentre in Francia, e lasciamo stare la Germania, uso la Francia perché è quella più simile a noi come contagio e morti, invece cercano di fare tornare pur scaglionati, pur con diverse settimane, pur nelle diverse aree rosse, con più restrizioni, in verde con meno, qui è come se si fosse detto tanto ci si rivede a settembre. Comunque, andiamo alla liquidità che sta, o meglio in molti casi non sta, arrivando alle imprese. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Vedo per esempio che mi scrivono dall'Olanda, l'Olanda ha avuto anche un po' di casi anche lei, non ne ha avuti pochi, eh. Sono aperte da oggi fino ai 12 anni, vanno a scuola lunedì, mercoledì e venerdì, una settimana, e martedì e giovedì la successiva, per esempio. Ho visto altri tentativi di avere almeno un giorno a scuola a settimana, per carità. Allora, le banche, dicevo, il tema è proprio quello che segnala, a mio avviso, un'ascoltatrice, e cioè dice, aspettate che lo riprendo, è un bancario, il rischio per le banche è l'accusa di bancarotta se per caso chi ti eroga poi il prestito, se non esiste la malleva. Ecco, vorrei arrivare proprio a questo per capire se c'è qualche inghippo di carattere legale che fa frenare le banche nella possibilità di erogare con più scioltezza, con più velocità. Fatti salvi tutti i controlli, riciclaggio, mafia, situazione precedente, perché è ovvio che vai a vedere anche la situazione precedente. Allora, Laura Serafini del Sole 24 Ore, buonasera Laura. Buonasera a voi. Intanto i dati e alcune dichiarazioni. 140.000 le domande al fondo di garanzia per oltre 7 miliardi e 200 milioni al 10 maggio, la stragrande maggioranza richiede il 117.000 sono operazioni per finanziamenti fino a 25.000 euro per un importo finanziato di oltre 2,46 miliardi. L'ABI segnala che c'è un forte impegno delle banche per dare liquidità alle imprese. L'amministratore legato di Crédit Agricole Maioli ha detto sono già state evase 1.600.000 pratiche di moratori per i mutui e arriveranno alle imprese, quelle sono le moratorie per i mutui, 2 miliardi 200 milioni di euro. Poi altre dichiarazioni riguardano l'ABI che aveva chiesto espressamente la tutela penale per ridurre i tempi delle istruttorie. Occorre che evitare che sulle banche e sugli esponenti siano trasferiti i rischi, ossia nel caso le imprese si dovessero poi rivelare insolventi, occorre estendere l'esenzione dal reato di bancarotta, cioè il direttore di filiale, il responsabile non può essere accusato di aver contribuito alla bancarotta. Per la nuova legge fallimentare prevede per la finanza emessa durante che la nuova legge fallimentare prevede per la finanza emessa durante le procedure quali il concordato preventivo. Questo problema, se ho ben capito, esiste anche per i prestiti fino a 25.000 euro, perché è vero che c'è l'autocertificazione della garanzia statale, ma non è scritto da nessuna parte, cioè andava forse scritto in maniera esplicita che qualche tribunale non imputerà loro di aver finanziato un'azienda già decotta e quindi di aver contribuito ad aggravare la posizione finanziaria della banca. Allora, sentiamo Gualtieri ieri a Che Tempo Che Fa e oggi il viceministro Antonio Misiani, ospite di Maria Latelle, Simone Spezia 24 mattina, e poi vediamo di capire con Laura Serafini se il tema è proprio la malleva, la copertura giuridica. Ci sono state effettivamente delle lentezze all'inizio da parte del sistema bancario, io però adesso i numeri stanno migliorando, io noto una cosa, che ci sono situazioni molto diverse, perché ci sono tante persone, tanti imprenditori, per esempio il prestito fino a 25.000 euro, che lo hanno molto rapidamente, vanno in banca con una procedura semplificata, online, e hanno in 48 ore questo prestito. Quindi è possibile con le norme attuali essere rapidi, perché ci sono differenze molto significative, invece ci sono tanti casi in cui la filiale chiede dei documenti aggiuntivi. Quindi noi innanzitutto diciamo al sistema bancario, che ringraziamo naturalmente ai lavoratori delle banche, alle banche per questo sforzo, perché c'è una fortissima aspettativa, tantissima pressione, li ringraziamo, ma al tempo stesso li invitiamo, li sollecitiamo ad applicare quello che noi abbiamo scritto, che consente, lo dimostrano i casi, di dare i prestiti molto rapidamente. Poi, per dare un incentivo maggiore, stiamo ragionando, probabilmente ciò avverrà con un emendamento al decreto liquidità, anche di introdurre quest'ulteriore modifica per eliminare, diciamo così, ogni alibi alla concessione rapida di questo credito, che è molto importante per tutte le famiglie e le imprese che ne hanno bisogno. Sulla liquidità stiamo migliorando, i numeri sono incoraggianti, ma vogliamo fare di più, chiediamo un impegno maggiore al sistema bancario e siamo pronti anche noi a intervenire con interventi normativi ulteriori per facilitare e accelerare ulteriormente le procedure. Il provvedimento sui prestiti alle imprese garantiti fino al 100% dallo Stato. Noi abbiamo scritto un provvedimento sostanzialmente autoapplicativo con una procedura semplificata. Poi ci sono banche che erogano questi finanziamenti in 72 ore e altre invece che, per il modo in cui hanno organizzato i processi interni e le verifiche che chiedono alle imprese che si rivolgono a loro, ci mettono molto molto più tempo. È colpa del legislatore? È colpa della pubblica amministrazione? O ci sono anche responsabilità del sistema bancario, o almeno di una parte del sistema bancario, che sta rispondendo con inaccettabile lentezza? Ecco, credo che l'assunzione di responsabilità sia doverosa, ma sia doverosa da parte di tutti. Allora, posso essere anche d'accordo con Misiani che la colpa non è sempre del legislatore, del politico, però a Gualtieri dico: attenzione Ministro, forse lei è poco informato o è informato solo dei casi positivi, perché a noi invece continuano ad arrivare casi negativi. Le leggo, leggo l'ultima lettera, mi ha scritto, tralascio nome e cognome, ma ho la mail, è il legale rappresentante di una società che commercializza automobili e sede legale in provincia di Ascoli Piceno. Presenta l'indomani del decreto la richiesta del finanziamento di 25.000 euro alla banca del Piceno, credito cooperativo, dopo che il suo commercialista aveva verificato che possedeva tutti i requisiti necessari: non ha iscrizione negativa al CRIF, non ha debiti, prestiti in essere, insomma ha solo il conto corrente. Il 7 maggio lo chiamano dalla banca dicendogli queste parole: signor XY, riguardo alla sua richiesta, per noi lei non ha merito creditizio, quindi onde evitare che la sua richiesta venga bocciata le consigliamo di ritirarla. Lui invece va avanti ma non si capacita. Laura Serafini, partiamo dal tema legale, perché dice Misiani: non è colpa nostra se alcune banche hanno procedure più lente e altre ce l'hanno più veloci. Si faccia anche una critica al mondo bancario. È vero che però forse il legislatore doveva chiarire questa cosa della malleva, cioè della tutela legale? Allora, sicuramente questo aspetto della malleva andrà chiarito, però attenzione, perché tematiche che sono state affrontate sono varie e hanno diversi piani. Allora, rispetto al caso che tu stavi citando dell'imprenditore che gli hanno detto lei non ha merito di credito, bisogna ricordarsi che le norme del decreto liquidità prevedono che possano accedere ai crediti, a questi prestiti garantiti, solo le imprese che erano in bonis, mi pare la data di febbraio, di fine febbraio. Quindi bisogna vedere esattamente quanto poi queste imprese o individui che vanno a chiedere questi prestiti avessero una situazione assolutamente, come dire, chiara da questo punto di vista. Poi è evidente che tra i prestiti garantiti al 100% e quelli che invece non lo sono, e quindi sopra i 25.000 euro, ci sono delle tempistiche assolutamente diverse, no? Perché finché c'è una quota di rischio in carico alla banca, la banca si farà tutte le verifiche del caso, soprattutto se in mancanza di manleva, e non solo di manleva, anche della famosa autocertificazione, che invece esiste per i prestiti fino a 25.000 euro. No, ma mi sembra, allora io capisco, allora è ovvio che 25.000 euro, però siccome noi abbiamo un problema anche e soprattutto in questo momento nel mondo dei servizi, del commercio, nel mondo artigiano, continuo a dire, non solo perché ha chiuso come hanno chiuso altri settori, ma perché anche quando riaprirà, penso bar, ristoranti, negozi, non potrà immaginare dei fatturati come prima, perché c'è un tema anche culturale e oltre che di vincoli, cioè in fabbrica con le misure di sicurezza puoi tornare a lavorare e molti lo fanno già come prima. In un bar, un ristorante, per quanto tu metti le misure di sicurezza, dipende se il cliente ti entra oppure no. Allora lì c'è bisogno anche di circolante e di liquidità per pagare fornitori e stipendi. Resta con noi Lauro, ho il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Got a new vibe with this. 17:41 minuti. Allora, sto ricevendo decine di messaggi al 349-238-6666. Alcuni che mi segnalano banche che invece dopo una settimana hanno erogato i 25.000 euro, altri che manca una risposta dopo 20 giorni. Allora, Laura Serafini, che cosa è migliorabile e alla fine di tutto, insomma, quanto, non è per dar ragione o torto a Misiani, ma quanto è ancora responsabilità dello Stato, cioè, visto che c'è un nuovo DL in arrivo, chiarire appunto la malleva, l'eventuale non possibile accusa per il dirigente bancario di aver contribuito a una posizione instabile sulla banca, quindi l'accusa anche di crack per aver prestato soldi a chi non era solvibile, e quanto invece è un problema interno agli istituti bancari. Allora, guarda, da quello che diciamo si ricostruisce in queste ore nei decreti, sia nel decreto rilancio sia come possibile emendamento al decreto liquidità, potrebbe entrare la famosa autocertificazione anche per i crediti, per i prestiti sopra i 25.000 euro, e questo potrebbe agevolare molto l'erogazione di quel tipo dei prestiti. Però anche qui bisogna capire dove entra questa cosa, se come emendamento al vecchio decreto o in quello nuovo, e anche qui c'è un aspetto di incertezza abbastanza ampio. Per quello che riguarda la manleva non abbiamo ancora visibilità sul fatto che il governo intenda introdurla, perché ci sono alcune forze politiche che sono contrarie. E ricordo nei giorni scorsi un'intervista rilasciata dal ministro Patuanelli al nostro giornale, nella quale non sembrava favorevole a queste ipotesi. È chiaro che comunque per la banca questo tipo di rischio, per quanto sia la legge che gli dice tu devi dare questi prestiti che sono garantiti, se poi dopo un giudice dice questa azienda è fallita e tu gli hai dato un prestito, adesso mi devi spiegare perché gliel'hai dato quando non avevi la certezza di quello che poteva accadere. E qui ti apro l'aspetto invece chiave di questa storia. L'aspetto chiave, soprattutto per i prestiti sopra i 25.000 euro, è quello del cosiddetto Covid assessment. Cioè, la banca si ritrova un'impresa che deve valutare non solo come merito di credito, come diciamo trascorso, ma anche come prospettive future del business. E quello che tu dicevi prima, cioè come faccio io a valutare oggi quale potrà essere il flusso di incassi di un ristorante o di un albergo quando non sappiamo neanche ancora in che modo potranno riaprire? La banca li deve finanziare, perché sennò quelli, come dicevi tu, rischiano proprio di non poter pagare i fornitori, non poter pagare quei dipendenti che non sono andati in cassa integrazione e quant'altro. E questo è un quesito al quale un'impresa non può rispondere, non può presentare un business plan con il Covid assessment, non lo può fare, e la banca a sua volta ha difficoltà a finanziare. E questo è un tema grosso che in parte potrebbe essere diciamo superato con la questione delle autocertificazioni. E il tutto, sì, ti segnalo Laura che però molti ascoltatori mi dicono che anche per i prestiti fino a 25.000 euro le autocertificazioni la banca non le vuole. Insomma, ha appena scritto un signore che è il tipico esempio. Allora, ha un bar fatto da una SRL, due ragazzi da 27 anni, la quarta volta che ci richiedono documentazione è al massimo di 10.000 euro, ma non sono sicuri di poterceli dare più di un mese. Prego. Allora, attenzione, ricordiamo che i massimali sono 25% del dei fatturato ricavi, fino certo, a massimo. Dei ricavi. Okay, quindi c'è un tetto. Dopodiché c'è un modulo che va compilato, è quello, è un unico modulo all'interno del quale si mette la firma in alcuni punti, e quella vale per autocertificazione. Allora, se una banca chiede in maniera impropria documentazioni aggiuntive senza che ci sia una motivazione concreta, si possono fare due cose. Rivolgersi, c'è un portale che si è aperta la Banca d'Italia con un numero da chiamare, quindi si può anche in qualche modo raccontare cosa sta accadendo, oppure si può anche cambiare banca e vedere se magari è un problema di quell'istituto di credito che per motivi suoi intende farla molto lunga. Dopodiché però ci sono anche altri aspetti, perché molto spesso queste domande sembrano facili da compilare, ma siccome quello che tu vai ad autocertificare poi ne rispondi penalmente, la banca si accerta che tu abbia esattamente cosa stai scrivendo. Le condizioni. Poi ci sono altri aspetti, non credo che sia il caso della persona che lo stava segnalando, ma ci sono anche tematiche legate all'antiriciclaggio, per cui in alcuni casi i funzionari di banca che hanno chiaro il tipo di clientela sanno che su alcune situazioni è bene approfondire per evitare problematiche per tutti. Quindi il quadro può essere variegato per varie ragioni. Questo però non giustifica il fatto che poi una banca si trinceri dietro questa cosa per non erogare. Quindi le alternative sono andare altrove. Allora, io invito, hai fatto bene a dire una cosa, c'è un portale della Banca d'Italia, sì, e uno può rivolgersi a questo. Nel frattempo, se uno continua a ricevere un altro, mi dice, correntista della banca di Cari Parma da 20 anni, finanziamento Covid di 15.000 euro, ho dovuto presentare 2 volte il modulo di richiesta perché mi hanno cambiato la referente, 3 volte il modello unico 2019, 1 autocertificazione, 2 volte il modulo 4 bis, scansione della carta d'identità, al momento ancora nessuna risposta, niente di niente. Ora io, capite, cioè questo è il problema, ripeto, l'ho già detto una volta, o abbiamo sfiga solo noi, che ci scrivono solo quelli che non hanno ottenuto, oppure c'è un problema in cui si sta incagliando una parte. È stata un'impresa facile per nessuno, è la prima volta che lo Stato garantisce, a mia memoria, il 100% per una platea così ampia, così come la prima volta che si danno i 600 euro nel conto corrente. Stiamo solo dando suggerimenti, non in chiave distruttiva. A me, quelli che criticano, non hanno mai una proposta alternativa se non uscire dall'euro, li manderei tutti quanti a spalare. Però ecco, qua bisogna anche dare una rappresentazione al ministro Gualtieri, visto che abbiamo fatto la sua, dice adesso che le cose stanno migliorando. Abbia pazienza, Gualtieri, nel nostro piccolissimo osservatorio stanno migliorando mica tanto o molto lentamente. Quindi vediamo di capire se si può introdurre un elemento di maggiore certezza per le banche sulla responsabilità in caso di fallimento, e non abbiano neanche quella scusa. Dopodiché resta la seconda tua possibilità, e sono d'accordo anch'io, c'è un mercato, si cambi banca. È inutile stare nella BCC o nella grande banca se questa ti tratta come un appestato. Cambiate banca e vediamo che anche in questo modo parte un po' di concorrenza. Grazie Laura Serafini. Vedo che adesso c'è un flash agenzia sull'altro tema, e cioè le mascherine e i dispositivi medico-sanitari di protezione. Il commissario per l'emergenza della cura ha pubblicato il bando di gara per acquisire 5 milioni di kit per la diagnosi del coronavirus. Si concluderà il 18 maggio. Noi, in attesa di questo, però, cerchiamo di capire che cosa stia succedendo alla fase 2 e poi anche alle mascherine, perché non c'è fase 2 seria senza dispositivi di sicurezza seri, e aggiungerei anche senza la possibilità di tracciare in maniera seria, quindi maggior numero di tamponi. Arriva qualche buona notizia invece dai dati della Lombardia sui contagi. Milano e provincia sono stabili, più 100 in città, più 52, con un numero di tamponi uguali, più 50 casi a Bergamo, più 70 a Brescia. Ho visto che i decessi a Milano ieri erano stati, se ho ben visto il dato, 68, ma eccoli qua. In Lombardia, in tutta la Lombardia 68, purtroppo la Lombardia con questi 68 decessi arriva sopra la soglia dei 15.000 morti, anzi 15.054 dall'inizio dell'anno, e ahimè conferma il 50% secco praticamente di tutti i decessi avvenuti in questo paese. Traffico. Focus Economia. Allora, arrivano anche molte segnalazioni, guardate, ve ne cito una. Domanda fatta venerdì alle 9.44, a credito di 25.000 euro lunedì alle 17, un grosso gruppo italiano. Allora, facciamo così, io non voglio dire quali erano, che sono sempre di fare pubblicità, preferisco segnalare quelli che mi vengono segnalati come problematici, mettiamola così, perché sennò diventa un tabellone, poi non posso neanche verificare, però a dimostrazione che poi l'erogazione c'è stata, lo dicono anche i numeri, è molto lenta in alcune situazioni, in alcuni casi, e non vorrei che le erogazioni veloci fossero, come sospettava il segretario generale di Confartigianato venerdì con noi, fossero date a quelli che erano già in boni, cioè che stavano così bene, che vabbè, gliene dai ancora, ho capito che sei veloce, mentre adesso che tu dia anche a qualcuno che è in effettiva difficoltà, con un'effettiva difficoltà a avere un orizzonte economico, non perché la banca fa beneficenza, ma perché i soldi li garantisce anche Barisoni e tutti quelli che pagano le tasse, cioè li garantisce lo Stato, quindi la banca. Chiarite l'elemento, diciamo, di responsabilità penale, ma andate a erogare questi soldi. Voglio dire, negli anni scorsi abbiamo commentato decine di scandali bancari, dalla Vicenza, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, per erogazioni fatte alla ad Minchiam, agli amici degli amici, milionarie che facevano saltare la banca o con le baciate. Adesso non iniziamo a fare tutti i precisini, se si seguono le regole dello Stato, della legge, autocertificazione, controllo della posizione del cliente, soprattutto antiriciclaggio, e poi date sti 25.000 euro. Dunque, veniamo alla fase 2. Allora, l'unica cosa che ho capito della fase 2 è che sarà una fase 2 nel senso che vi saranno due fasi 2, 2 per 2 4, ossia ci sarà una fase 2 in cui alcune regioni potranno anticipare le aperture, ecco perché si chiama 2, perché saremo divisi in 2, ma lo dico senza battute, la Francia ha già fatto così, in cui si potranno anticipare parrucchieri, centri estetici, bar, ristoranti, che potranno fare anche non solo asporto e delivery, e una parte del paese che resterà nella fase 1. Sentiamo il ministro Boccia, perché ne parliamo, perché tra pochi minuti dovrebbe iniziare il confronto tra governo e regioni. Il ministro Boccia dice che vi saranno differenziazioni dal 18 maggio, e invece quello che ha detto oggi il presidente della provincia di Bolzano, Compascher, visto che da oggi sono riaperti parrucchieri, bar e ristoranti, sapete però che lo Stato ha impugnato, come già fatto con la regione Calabria, questa riapertura. Allora, prima Boccia e poi Compascher. Io spero, guardi, che con la differenziazione territoriale possano ripartire ovunque, e poi sarà ovviamente responsabilità della singola regione avere il quadro dei dati. Se i contagi andranno giù potranno aprire anche altre cose, se i contagi saliranno su dovranno restringere, e sarà più semplice per tutti comprendere, diciamo, responsabilità e doveri. La situazione è piuttosto tranquilla perché non c'è turismo, ovviamente, per quello, diciamo, anche le strade sono comunque relativamente deserte. Sì, hanno riaperto i negozi e anche questi servizi, però con tutte le misure di sicurezza previste nella legge stessa, che sono molto molto severe. Il governo, dopo aver impugnato l'ordinanza della Calabria e avere vinto almeno in primo grado al TAR, ora dice: ora faremo lo stesso con l'Alto Adige. Lei ha detto: siamo sicuri della nostra legge, reggerà. Intanto mi faccia capire i tempi e quando ci sarà un pronunciamento a favore dell'uno o dell'altro. Dipende sicuramente anche dalla consulta stessa, dipende anche adesso dal governo, diciamo, che modo sceglie anche per l'impugnazione, perché la legge sulla Corte Costituzionale prevede anche un iter accelerato. Io credo che non sia il caso, anche perché noi rispettiamo la nostra legge, assolutamente anche i diritti della legge nazionale per quanto riguarda il tema sanitario, invece per quanto riguarda le altre tematiche abbiamo la competenza legislativa primaria. Ciò si differenzia dalla nostra autonomia anche. La nostra non è un'ordinanza come quella della Santelli, ed è una legge, e abbiamo delle prescrizioni molto ma molto severe che vanno ben oltre, diciamo, quello che oggi sono le regole a livello nazionale. Noi siamo in continuo dialogo col governo, ovviamente. C'è una diversità di vedute sullo strumento che abbiamo utilizzato, la legge provinciale e anche qualche data. Noi abbiamo collaborato in tutto questo periodo, abbiamo apprezzato molto anche l'attività, l'azione di governo nella fase emergenziale, che secondo me è stata molto tempestiva e adeguata. Adesso per la fase 2 noi avevamo chiesto da tempo una differenziazione, anche perché il tasso di contagio era zero. Noi crediamo di poterci muovere, ovviamente, piombo e responsabilizzando soprattutto i cittadini. Allora, Davide Colombo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Scavallerai sul dopo le 18 GR, vedo i dati adesso, poi li commentiamo, sono abbastanza positivi anche oggi su decessi, guariti e neopositivi, si sta obiettivamente appiattendo la curva, anzi Davide facciamo così, commento i dati e poi ti riprendo alle 18.05 perché la protezione civile tanto fa solo un comunicato stampa. Allora, i nuovi positivi sono 744, poi vedrò le percentuali dopo il GR, e di cui gli attualmente, che portano il totale tra positivi, guariti e deceduti a 219.814. Attualmente sono ancora positivi 82.488 persone, 836 in meno rispetto a ieri. I decessi sono 179 in più rispetto a ieri, a 30.739. I guariti sono 1.400 in più rispetto a ieri e quindi salgono a 106.587. Dopo il GR vi darò le percentuali anche, ma mi sembrano assolutamente in linea con i dati degli ultimi giorni. Importante che i decessi siano sotto quota 200 come già ieri e l'altro ieri. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, adesso le percentuali, ripeto i dati diffusi dalla Protezione Civile: i nuovi positivi sono meno 836, meno 1%, i guariti più 1.401, più 1,3%, e anche questo dato è in linea un po' più basso dei giorni scorsi. I decessi più 179, più 0,6%. E anche in questo caso invece il dato è assolutamente in linea con i giorni scorsi, un po' più basso soprattutto della settimana scorsa, ci mancherebbe. I totali contagiati più 744, più 0,3%, un dato decisamente più basso di tutta l'ultima settimana. Terapia intensiva meno 28, meno 2,7%, anche questo è un dato importante perché le terapie intensive non dipendono dai tamponi. E anche il totale dei ricoveri meno 107, meno 0,7%. C'erano stati minor ricoveri, cioè una diminuzione dei ricoveri più forte nei giorni scorsi, così come anche la diminuzione della terapia intensiva era stata più forte nei giorni scorsi. Comunque, i dati sono tutti positivi, tranne chiaramente i decessi, che sono ancora 180. Quasi 180, sono sicuramente sotto i 200 che erano ahimè la media della settimana scorsa, e molto più bassi rispetto alle settimane precedenti. Una nota la devo dare però, perché adesso non voglio fare polemica oggi, ma proprio perché parliamo di distanziamento sociale. L'OMS adesso dice attenzione che i paesi in Corea, Cina e Germania più casi dopo la fine del lockdown, però io mi aspetto Ghebreyesus, il presidente, il direttore generale, mi aspetto ancora che ci aiuti a capire perché a gennaio diceva che non era chiara la contaminazione uomo, cioè il passaggio uomo-uomo del virus, che poi la Cina comunque aveva adottato tutte le misure necessarie. Ma al di là dell'OMS, un appello lo vorrei fare a tutti, ma in questo caso anche ai colleghi. Abbiamo visto le immagini sui TG, chiaramente, di quello che è successo all'arrivo di Silvia Romano a casa sua. Ora, abbiate pazienza, ho tirato mi sono incavolato come una bestia venerdì per i Navigli e ribadisco quello che ho detto, però a partire dai colleghi, ma è mai possibile che ci possa essere un assembramento del genere quando arriva Silvia Romano per poi far che cosa? Per sentire la battuta che dice abbiate rispetto della mia situazione, ma ancora. No, perché poi ho capito i ragazzi con lo spritz, ma se poi sono i giornalisti i primi a comportarsi, ma guardate le immagini. Tu mi dici stanno facendo il loro lavoro, ho capito, c'è modo e modo, e comunque il distanziamento sociale vale per tutti, non è che alcune categorie ne possono essere escluse, anche se si chiamano giornalisti. tanto sapevano che non avrebbe detto nulla, quindi, ma al di là della valutazione, uno manda il collega, però non puoi fare l'assembramento che si è visto, con la polizia che spingeva le persone e apriva un varco per far passare Silvio Romano, ma dai. Comunque, torniamo alla riapertura con Davide Colombo. Allora Davide, abbiamo sentito sia Boccia che Compascher, quello che ho capito io è che la fase 2 sarà così, anche perché il paese sarà diviso in due, la Francia si è divisa anche in tre a un certo momento, perché ha fatto zone verdi, zone arancioni e zone gialle, zone rosse, ma mi sembra che l'indicazione sia questa, cioè che quelle attività che dovrebbero riaprire il primo di giugno avranno anticipato in alcune regioni la riapertura il 18 maggio? Ma allora, questo è lo scenario che si delinea. I dati buoni che hai letto poco fa sotto il profilo epidemiologico vanno incrociati con questi 21 indicatori con cui appunto il ministro Boccia e le regioni stanno confrontando i dati che arrivano dai monitoraggi regionali. Cioè, questi 21 indicatori prevedono per esempio il numero di tamponi che vengono effettuati negli ultimi 5 giorni, quante terapie intensive sono garantite e eccetera. Questo perché? Perché avvicinandosi appunto al 18 di luglio, al 18 di maggio. No, ti prego, ecco, non manca data, 18 di data, 18 di maggio, data prevista appunto per la riapertura, almeno in alcune regioni, si tratta di capire appunto se questi 21, una parte di questi 21 indicatori verranno o meno centrati. Nel frattempo le linee guida, le raccomandazioni INAIL e il Comitato Tecnico Scientifico per il rispetto diciamo dei limiti che sono necessari per non impattare nel rischio nuovo contagio si vanno via via definendo, quelli per ristoranti, taverne, pizzerie. Ecco fermati che questo è importante, perché chiaramente tutti, io continuo a dire, i settori più massacrati sono e saranno gli esercizi commerciali, soprattutto se legati al turismo o a consumi culturali. Consumo culturale non è solo andare al museo, ma può anche, diciamo, atteggiamenti culturali, è se ti va o no ad andare al ristorante e come pensi di andare al bar. Allora, siccome la ristorazione in Italia conta circa 1.200.000 lavoratori e ci sono 1.100.000 lavoratori sospesi, 108.000, solo 108.000 sono rimasti attivi perché viene autorizzata l'erogazione dei servizi di asporto, ma questo voi capite che siamo a 1 su 10 che è rimasto attivo, vuoi perché alcuni bar e ristoranti non hanno proprio aperto, vuoi perché anche quando garantisci il servizio di asporto hai bisogno di molto meno personale, questo è il vero problema. Ci deve essere il pieno rispetto delle tre dimensioni, la prossimità, ossia la distanza da rispettare tra lavoratori, l'esposizione, ossia l'avvicinamento a soggetti potenzialmente contagiosi, l'aggregazione. Sentite cosa ha detto Antonio Misiani questa mattina e anche a 24 mattino con chiaramente Simone Spezia e Maria Latella, e poi invece anche il sindaco di Bari, presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, al microfono di Alessio Maurizi ad Effetto Giorno. Prima Misiani e poi De Caro. Per esempio la decisione di riaprire prima alcuni settori dell'economia e successivamente altri è una decisione che sta evolvendo di giorno in giorno, e noi speriamo di poter anticipare la riapertura di settori come bar e ristorante, la riapertura al pubblico, e questo naturalmente ha un riflesso economico. Fino a ieri sera abbiamo definito l'ultima versione, diamo la possibilità a chi ha già un'occupazione di suolo pubblico all'esterno di poter fare un ampliamento, e a chi non ha mai avuto un'occupazione di suolo pubblico di poterlo fare un nuovo ampliamento senza passare dai vincoli della sovrintendenza. Per qualche mese andiamo in deroga perché abbiamo la necessità di far lavorare tutti, non si potrà lavorare all'interno, e chi aveva già degli spazi all'esterno ovviamente col distanziamento sociale non potrà mettere nello stesso spazio lo stesso numero di tavolini, quindi per tenere in piedi l'attività economica cerchiamo di ampliare gli spazi all'esterno e cerchiamo anche di non far pagare, poi noi sindaci non vogliamo far pagare, abbiamo trovato un'intesa col governo che rimborserà una parte della TOSAP. Ecco, perché questo va spiegato bene, perché le tasse sono tasse comunali, queste di occupazione del suolo pubblico, quindi se ci fosse, come dire, una previsione di togliere queste tasse sarebbero minori introiti per i comuni, quindi bisogna fare o che i comuni rinunciano oppure una forma di compensazione. Io ho già approvato una delibera che in estensione allo spazio già che viene pagato per l'occupazione solo pubblico, basta una semplice comunicazione, non devo autorizzare niente, possono ampliare fino al 50% il numero dei tavolini, quindi l'occupazione del suolo pubblico senza pagare nulla, ovviamente sotto la responsabilità del mio comune e del mio ufficio finanziario. Se diciamo che invece tutte le occupazioni suolo pubblico nei prossimi mesi non devono essere pagate, è chiaro che ci vuole un contributo dello Stato, perché noi comuni lavoriamo come delle aziende, abbiamo delle uscite per offrire i servizi come non so, i rifiuti o il trasporto pubblico, e abbiamo delle entrate. Che investimento richiederebbe per il governo una misura del genere, che aiuterebbe credo non poco in questi mesi estivi soprattutto, ma anche più avanti, bar e ristoranti? L'importo può valere circa 200 milioni di euro, ma non credo che otterremo più di 40-50 milioni di euro dal governo. Va bene, chiaramente no per i comuni. Comunque, Gianni Trovati, buonanotte oggi, Davide Colombo, no, perché dovevamo avere Gianni Trovati sul il pre-Consiglio dei Ministri che sta slittando, e quindi stavo andando anch'io, diciamo, più veloce del Consiglio dei Ministri, non è molto difficile. Allora, Davide Colombo, chiarisci due cose: i 4 metri sono di distanza o, in base all'orientamento che sta uscendo, sono 4 metri quadrati per, diciamo, tavolo e 2 metri di distanza? Non è una differenza da poco in un ristorante? Allora, dal testo che ho potuto leggere io, che appunto è un testo che a questo punto in sede di comitato tecnico e ancora di più in sede di DPCM potrebbe essere modificato, si fa un riferimento di 4 metri quadri perlomeno di spazio per... Quindi un 2x2, diciamo. Un 2x2 per ogni singolo cliente e una distanza di 2 metri da tavolino a tavolino. Naturalmente quello che abbiamo sentito adesso, cioè la deroga sull'occupazione degli spazi pubblici fuori dai ristoranti, dalle pizzerie, dalle taverne, è una indicazione buona per i mesi estivi, ci sarà un utilizzo di questi spazi, almeno questo è l'orientamento su cui punta INA e il Comitato Tecnico Scientifico. Naturalmente c'è da sperare che poi, quando finirà l'estate, questo provvedimento e la situazione abbia uno sviluppo positivo. Come dicevi tu, gli addetti coinvolti sono oltre 1 milione e sono sospesi. Bisogna solamente ricordare una cosa importante: nel caso dei ristoranti e delle pizzerie, insomma, le norme che devono essere rispettate dal punto di vista dell'igiene sono molto molto rigorose già da prima di questa pandemia, e quindi si introducono dei criteri proprio per la garanzia del distanziamento, appunto le mascherine per i camerieri e per i cuochi, la distanza che deve essere garantita negli spostamenti all'interno dei locali. Insomma, questo è un quadro evidentemente molto preciso. Ti posso chiedere un'ultima cosa, perché me la chiedono gli ascoltatori, ma dalla bozza che tu hai letto, c'è intenzione di dare anche un'indicazione su il plexiglass, cioè le misure di distanziamento ottenute anche attraverso degli schermi, delle schermature? Allora, sul plexiglass, tra l'altro, ho visto una nota molto preoccupata dei ristoratori, dicono con i plexiglass chiudiamo tutti, così, no? La categoria è molto preoccupata. I plexiglass, per quel testo che ho visto io, sono indicati come estrema ratio nel caso in cui non si riescano a garantire queste distanze minime di 2 metri per tavolino, e invece sarebbero obbligatori solamente per quando vai alla cassa, c'è plexiglass alla cassa. Dovrebbero essere scongiurati appunto un'estrema ratio proprio per i locali molto piccoli, laddove non si riesce a garantire questo distanziamento. Cioè, i 4 metri quadri, i 2 metri di distanza. 4 metri quadri. Mentre invece per le famiglie, i nuclei familiari, naturalmente potranno andare nello stesso tavolo senza particolari attenzioni al distanziamento, proprio perché autocertificano di essere dello stesso nucleo familiare. Certo. Sono gli avventori singoli, allora, che devono essere tutelati. Certo, sì, che poi tutto questo è la prevenzione, poi bisognerà vedere, come dicevo, essendo comportamenti tra virgolette culturali, sociali, se io vorrò andare al ristorante in quelle condizioni, vorrò andare al bar in quelle condizioni. Non sono bisogni di prima necessità, non è che ci giriamo attorno. Un conto è comprare un capo d'abbigliamento che ti serve, entri, lo compri e te ne vai, se non lo ordini online. Altra cosa è un luogo di aggregazione sociale con tutto un elemento culturale come un bar o un ristorante in cui vai per stare bene, non perché devi sfamarti o devi berti lo spritz. Grazie anche a Davide Colombo, finalmente ce l'ho fatta, in collegamento con noi. La buona notizia dei dati di oggi, che prima non ho dato, è che le terapie intensive sono scese per la prima volta sotto le 1000 unità. E continua appunto anche il calo dei contagiati, meno 744 e i malati 836 meno di ieri. Proprio perché parliamo di fase 2, diventa importante capire la denuncia di chi deve distribuire mascherine, non solo, perché senza gli strumenti di protezione la fase 2 così diventa aleatoria. Ne parliamo dopo il traffico con il segretario nazionale di Federfarma. Focus Economia. Le mascherine che noi distribuiamo non solo sono quelle che le regioni utilizzano tutti i giorni per il sistema sanitario, parasanitario e pubblico, ma sono di più, sono talmente di più che le regioni riescono a metterne da parte una quota, che ieri era complessivamente di 40,3 milioni, che gli servirà per fronteggiare picchi di domanda o rigurgiti dell'emergenza. Direi che ormai questo argomento lo possiamo accantonare. Così il commissario Arcuri lo scorso 21 aprile, segretario nazionale di Federfarma Roberto Tobia, lei che rappresenta oltre 16.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, buonasera. Buonasera a voi. Allora, perché voi dite oggi che non è così? Se ho ben capito, la denuncia è che siccome per esempio in Spagna e in Francia il prezzo pure lì calmierato, cioè deciso dallo Stato, però è di 96 centesimi prima dell'IVA, qua è di 50 centesimi prima dell'IVA, se ho ben capito voi dite che praticamente i produttori preferiscono dirottare laddove vengono pagate di più, e vorrei capire se questo vale anche per i produttori italiani, a quello che voi risulta. Prego. Allora, io mi limiterei in questo momento alla fotografia che possiamo dare oggi della situazione. Di fatto tra sabato e lunedì, quindi oggi, sono stati distribuiti attraverso le nostre aziende della distribuzione intermedia alle farmacie italiane 3 milioni di mascherine, 3 milioni che sono stati molto più frequentemente distribuite a Roma, nelle grandi città. Parliamo delle chirurgiche? Parliamo delle chirurgiche, okay. E soprattutto tra Milano e Torino, che sono sicuramente zone nelle quali c'è una maggiore necessità, soprattutto diciamo relativamente alle situazioni contingenti locali. Non si hanno in questo momento notizie riguardo i 12 milioni di pezzi di mascherine che dovrebbero arrivare alle nostre farmacie in questa settimana, né tantomeno dei 15 milioni promessi dal commissario per la fase successiva, per le prossime settimane. La preoccupazione è grande, soprattutto nel momento nel quale il Paese ha necessità di avere a disposizione un dispositivo assolutamente indispensabile per la popolazione, onde evitare la possibilità di un ritorno al lockdown, a quello che è stato una fase sicuramente importante, nella quale non vogliamo sicuramente ritornare, in un momento nel quale il Paese si trova nella fase di ripartenza. Quindi la preoccupazione è grande da parte nostra e vogliamo svolgere il nostro ruolo, il nostro lavoro in maniera concreta a disposizione delle autorità competenti, ma dateci la possibilità di farlo. Parliamo del prezzo, piuttosto, come faceva riferimento lei, a prezzo europeo, ma parliamo del prezzo di un prodotto che nei fatti non c'è, non è nelle nostre farmacie. Però mi faccia capire una cosa, perché c'erano state molte polemiche con i farmacisti su prezzi e anche mascherine vendute a prezzi esorbitanti. Io vorrei capire cosa chiedete voi, perché so che alcuni suoi associati le avevano già comprate a prezzi più alti di quello calmierato e dicono: va bene non guadagnarci, ma almeno non perderci, che lo Stato vada in compensazione. Dall'altro, mi dica, e la produzione nazionale, mi chiedono molti ascoltatori, prego. Allora, da questo punto di vista è stato trovato un accordo al commissario per il ristoro di quelle che sono le nostre giacenze presso le farmacie, nel momento nel quale fu imposto il prezzo, magari senza porre la massima attenzione sulla disponibilità del prodotto in commercio. Che io sappia, dalle notizie che giungono per le vie brevi, ad oggi la produzione nazionale non è ancora partita, ma questa domanda non dovete rivolgerla a noi, ma dovrete rivolgerla al commissario e alla struttura della protezione civile. Noi siamo disponibilissimi, abbiamo accolto con grande favore la dichiarazione del Presidente del Consiglio Conte che sì, però mi scusi, voi avete detto oggi che da domani le mascherine chirurgiche sono finite perché sono troppe, sono bloccate, ho capito bene? Ma guardi, di mascherine nelle nostre farmacie non ce ne stanno, non le abbiamo nascoste, non stanno nei nostri magazzini, sono finite perché un quantitativo minimo come 3 milioni, è chiaro che con una richiesta così importante che arriva dalla gente finiscono in poche ore nelle farmacie italiane. Il fabbisogno medio è sicuramente molto più alto, si parla oggi soprattutto nella fase iniziale, della fase 2, di 10-12 milioni al giorno di mascherine, e non abbiamo notizie di quello che succederà domani, se saranno disponibili, se saranno promesse, se le promesse saranno mantenute. Quindi ad oggi io credo che il motivo principale per il quale le mascherine non sono disponibili è che il prezzo sia eccessivamente basso. Lei faceva cenno al prezzo che è stato Francia, in qualche modo indicato in altre nazioni europee. Bene, probabilmente sarà stata fatta un'indagine di mercato, probabilmente ci resi conto che la produzione non parte, e quantomeno gli importatori non importano in Italia perché il prezzo importo è talmente basso che non giustifica un lavoro in perdita da parte loro. Quindi queste credo che siano le vere. No, ma perché lo dico perché tutto si tiene purtroppo in sta maledetta epidemia o pandemia, perché è chiaro che la fase 2 tu la puoi applicare, se poi dici giustamente che devo avere la mascherina, questa mascherina, o immaginiamo di ricicciare la stessa chirurgica oltre il consentito, e allora vediamo di capire domani se la situazione si sarà sbloccata. Quindi lei conferma nel salutare l'allarme vostro, cioè da domani sono finite le mascherine nelle farmacie vostre associate? Assolutamente sì, non ci sono mascherine a disposizione e quindi siamo preoccupati. Le chirurgiche, le altre ci sono, quelle più care ci sono? Ci sono quelle più care, in alcune farmacie ci sono, non sono neanche a prezzi cari, ma il prezzo della mascherina è dettato dal prezzo di acquisto con la quale la farmacia con il quale la farmacia acquista, quindi sì, un mercato sicuramente drogato. Più il guadagno che fa la farmacia adesso. Okay. Ma molto molto limitato, vi assicuro. Va bene, si fa per dire. Grazie, speriamo domani di avere buone notizie su questo. Grazie anche al segretario nazionale di Federpharma, Roberto Tobia. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.